lunga, lunga, lunga, lunga. Stretulilla, stretulilla. Adostake, namorale. Non ci vanno ancora zuc, zuc, zuc, zuc. Zuculilla, zuculilla. E a sta piarrella, sciargoratella. A zoom ne voi, zoom dig credo mo. A dozen a bonghi, chi è stanche chi agneri. Scalina della salcina, scino al mare. Cercamella, trovamella. Shut the fuck up! Scarrupate, e nanrumate. A che la si innamora un nubitoro capito che prepara la forastiera e importa un mio dolore cuore e sento che m'accide sto pensiero. Stretulilla, stretulilla. Adostake, innamorati. Non ci vanno ancora. Zuc, zuc, zuc, zuc. Zuculilla, zuculilla. Testa piarre. Sciagurate a ghiurna, ghiurna parte nu vapore a ghiurna amore mio sabotta male. Grazie.